Oggi, come ultima lezione, affrontiamo quella questione che potremmo definire così. Io l'ho intitolata così qui l'ho intitolato motivi per cui è conveniente, può essere vista come conveniente la trasmissione del peccato originale da Adamo a noi, perché è un punto su cui, diciamo, un po' questa domanda ce l'abbiamo tutti, io penso. Ce l'ha senz'altro la gente nei momenti critici della vita, in cui succede appunto una disgrazia a qualcuno caro, e magari giovane, uno dice: ma perché? Perché questo è, come mai questa condizione dell'uomo, che effettivamente appare triste, appare dolorosa. Allora, io non ho trovato molto su questo, quindi quello che vi offro è qualche cosa un po' a partire da spunti ricavabili anche dal catechismo, e poi anche qualche considerazione che a me sembrava sensata, però forse questa è la lezione in cui, più che nelle altre, c'è un po' qualche visione anche mia, poi, quindi, insomma, voi prendetela con beneficio di inventario. Raccolto volentieri. Ecco, allora direi che il vero problema non è tanto, pensando alla trasmissione del peccato originale, trovare qual è il meccanismo di propagazione, perché per questo penso che sia sufficiente dire quello che dice il catechismo, che dice: il peccato originale si trasmette per propagazione, vale a dire che la natura umana in cui noi nasciamo è ferita, è privata della grazia, è ferita nelle sue facoltà naturali. Poi, che sia per il meccanismo della generazione, che sia, insomma, il meccanismo non è importante, il più è chiederci: ma qual è l'intenzione di Dio, l'intenzione del Signore, che deve avere visto una convenienza nel permettere che dopo Adamo lo stato dell'umanità fosse quello che noi conosciamo. Allora, bisogna cogliere questo, no? Cogliere perché il nascere privi della grazia santificante dopo Adamo, con una natura segnata dalla concupiscenza, quindi priva di quel dominio pieno della ragione sulle altre facoltà che permetterebbe all'uomo di vivere, di fare il bene anche senza particolari difficoltà, diciamo. E poi, ecco, una natura anche sottomessa alle leggi fisiche e biologiche del mondo materiale, cioè in fondo siamo anche un pezzo di materia in mezzo alla materia, quindi se urto mi faccio male, se digerisco male sto male, e poi soprattutto alla fine c'è la necessità di morire. Il catechismo fa un'affermazione di fatto che può dare una certa luce sul perché questo stato dell'umanità è stato permesso da Dio dopo il peccato di Adamo. Dice: tutto il genere umano è in Adamo sic ut unum corpus unius hominis, come un unico corpo di un unico uomo. Catechismo numero 404 cita qui San Tommaso d'Aquino. E dice poi: per l'unità del genere umano tutti siamo coinvolti nel peccato di Adamo. E questo è un dato di fatto, dice il catechismo: noi siamo come uno in Adamo. E abbozza anche un po' di spiegazione, questa prima è un'affermazione, diciamo. Poi dice anche: Adamo aveva ricevuto la santità e la giustizia originali non soltanto per sé, ma per tutta la natura umana. E quindi, quando ha peccato, la sua natura, e poi quella che si è trasmesso, è risultata ferita. Allora, di qui può partire un po' la nostra riflessione, da questa unità del genere umano in Adamo, che evidentemente questa unità del genere umano fa parte dell'intenzione creatrice di Dio. Cioè Dio ha fatto gli uomini non come dei singoli, degli individui sciolti e basta. Certo, siamo individui, ma siamo parte di una famiglia. E c'è una relazione forte che unisce la famiglia umana. E possiamo anche dire sicuramente che questa immagine dell'uomo, dell'umanità come famiglia, riflette la realtà divina, la realtà di Dio, che non è uno e non sono neanche tre individui, ma sono tre persone che in quanto persone sono definite come relazione. Cioè, quindi la pienezza della realtà personale, che è una persona divina, è totalmente relazione, che è una cosa notevole, no? Il padre si chiama padre perché è paternità. Allora, anche tra gli uomini l'idea della relazione tra di noi è fondante per capire l'umanità, quindi non è una cosa secondaria, diciamo. Allora, io da questo farei alcune affermazioni, da questa idea dell'unità della famiglia umana farei alcune affermazioni. E la prima è questa, cioè la volontà di Dio è che la mediazione umana, cioè da una persona all'altra, la mediazione umana nel trasmettere, per esempio, di padre in figlio o da persona a persona, dei beni, è una mediazione che ha un ruolo autentico nel piano di Dio, cioè esercita questa mediazione umana, questo agire nostro nei confronti degli altri, agire a tutti i livelli, lo applicheremo al caso di Adamo nei confronti dell'umanità, dei suoi figli, diciamo. Questo agire nostro esercita una vera causalità nei confronti degli altri, ha degli effetti, ha delle conseguenze reali. Ciò che io faccio ha conseguenze reali sugli altri. Allora, Adamo è evidentemente visto da Dio come il padre dell'intera famiglia umana, quello che era chiamato a comunicare tutto il bene ricevuto da Dio, a comunicarlo alla sua discendenza. Adamo, quando dico Adamo intendo sempre Adamo ed Eva, cioè l'insieme dei due. E in particolare doveva trasmettere il bene per eccellenza, che cos'era? Era la vita di relazione con Dio, quella relazione soprannaturale che il Signore, in cui il Signore lo aveva costituito in partenza. E insieme a questa relazione immediata, piena con Dio, con il Signore, avrebbe dovuto trasmettere anche tutti i beni che accompagnavano questa relazione, quindi i cosiddetti doni preternaturali. Allora, come abbiamo letto qualche giorno fa, la mediazione umana, che nel piano originario di Dio doveva essere mediatrice anche della grazia, cioè Adamo doveva trasmettere anche generare figli già nella grazia di Dio, è fallita, è fallita. E le conseguenze di questo fallimento, proprio perché questa mediazione agli occhi di Dio, nel piano di Dio, deve essere reale, effettiva, questo fallimento ha avuto delle conseguenze reali, effettive, sui discendenti, che riceveranno da Adamo non tutto il bene che Dio aveva dato a lui, ma lo ricevono parziale. Ora, perché a me sembra che questa sia già una prima risposta al motivo per cui Dio permette che la trasmissione del peccato originale ci sia, con le sue conseguenze? Perché il fatto che la mediazione umana nei rapporti tra gli uomini abbia un ruolo effettivo è strettamente legato al fatto che le relazioni tra di noi siano relazioni vere. Ed è legato al fatto che la storia umana sia una storia autentica, vera, dove le scelte personali incidono davvero e possono incidere non solo su di me, ma anche sugli altri, cambiare lo stato di cose. Cioè il Signore non ci ha fatti come dei burattini che qualunque cosa facciano, questo non influisce su di sé o sugli altri. No, ci ha fatto in un modo per cui nelle nostre relazioni noi possiamo autenticamente trasmettere il bene o trasmettere il male. Allora, se la relazione tra gli uomini è qualcosa di importante, di fondante, e su questo penso che quel testo di Ratzinger che abbiamo commentato un po' l'altro giorno, dell'85, sia molto bello, perché fa vedere come diciamo, l'uomo è essere in relazione, proprio perché è immagine di Dio, Dio stesso è relazione, quindi... Allora, ecco, nel piano di Dio, attraverso la relazione, noi davvero comunichiamo gli uni agli altri, possiamo comunicare autenticamente il bene oppure il male. E questo si realizza in modo, forse nel modo più grande, a livello umano, nella generazione di padre in figlio. Cioè, chi più dei genitori è chiamato a trasmettere la vita e insieme alla vita tutto il bagaglio che serve a una persona per vivere, l'amore, l'affetto, gli insegnamenti, ora, tutto questo Adamo doveva farlo e lo ha fatto male, l'ha fatto male. E il Signore ha permesso che questo avvenisse, non è che ha detto no, vabbè, hai sbagliato, adesso correggo io la cosa. Se avesse, diciamo, sminuito il ruolo della mediazione che Adamo doveva avere nei nostri confronti, in fondo Dio avrebbe sminuito il ruolo che tutte le nostre relazioni hanno anche nel corso poi della storia. Quindi a causa della scelta di Adamo ed Eva oggi esiste, ci dice la dottrina della Chiesa, la morte, la sofferenza, oltre al fatto che nasciamo privi, in prima battuta, della relazione con Dio. Però dobbiamo, io aggiungerei anche subito un fatto, che il fallimento della mediazione umana di Adamo ed Eva ha sì delle conseguenze reali su tutti noi, però queste conseguenze non sono decisive. Uso il termine decisive per dire che c'è qualcosa di più decisivo, di più importante ancora, che influisce su di noi. Perché? Perché Dio ha stabilito da sempre, da prima della creazione, un altro, potremmo mettere con maiuscola, un altro mediatore di tutto il bene che Dio ci vuole dare, quindi della grazia, della relazione con Lui, dell'immortalità. Un altro mediatore infallibile, che non fallisce nel suo comunicarci questo bene da parte di Dio. E questo mediatore è Cristo. Questo lo si vede già nella scrittura, Genesi 3:15, subito dopo la caduta, la promessa della stirpe della donna. E quindi il Signore, già Gesù, ci dà Gesù e poi una donna, no? Maria, che permette a Gesù di entrare nell'umanità, di diventare uomo davvero. E allora, sono il nuovo Adamo e la nuova Eva, la nuova madre dei viventi. Noi abbiamo la mediazione di Adamo fallisce, ma la mediazione di Cristo nel comunicarci il dono di Dio, la grazia, la vita, è, in un certo senso potremmo dire, anteriore. Anteriore perché sappiamo che Dio ci ha creati in Cristo, in vista di Cristo. Cioè, perché il suo progetto era da subito renderci figli suoi nel Figlio. E poi, dopo il peccato, ecco, questa intenzione originaria di Dio, semmai acquista, possiamo dire, in Dio non è che cambiano le cose, ma dal punto di vista nostro, acquista una insospettata profondità di amore, di misericordia, perché Dio, di fronte al peccato di Adamo e alle sue conseguenze, ecco, sarà disposto a mandare il Figlio nel mondo e a sanare fino in fondo, no? Il nostro male, il nostro peccato. Allora, le conseguenze del fallimento di Adamo ci sono reali, perché in questo modo la storia dell'uomo è reale, in questo modo le nostre relazioni sono reali e producono effetti veri, ma l'effetto più profondo in ciascuno di noi è dato da Dio. In questo senso io direi anche che questo vale per ogni uomo oggi, anche diciamo anche non a contatto immediato con il Vangelo. E lo dicevamo già, cioè la parola decisiva veramente nella relazione tra noi e Dio la mette Dio e poi noi in risposta. Quello che fanno gli altri uomini, gli altri mediatori anche della grazia, che, perché siamo veramente mediatori anche della grazia, ha un ruolo vero, reale, però che, ecco, che non riesce ad avere la stessa forza di quella relazione fondamentale che Dio ha con ciascuno di noi, e che in Cristo ci ha mostrato che è una relazione che Dio vuole donare a ciascuno di noi, no? Anche superando qualunque ostacolo dato dal nostro peccato. Concluderei questa prima parte dicendo che, ecco, la parola decisiva sulla relazione tra l'uomo e Dio la dice Cristo, che nella croce rimane a braccia aperte nei confronti di ogni uomo. Adamo ha fallito, Cristo invece raggiunge, con l'offerta di amore del Padre, ognuno di noi. Anche, ricordando quella frase del Concilio, Gaudium et Spes 22, raggiunge ognuno di noi anche per vie che solo lo Spirito Santo conosce. Quindi anche in quel contatto diretto che il Signore ha con col cuore di ogni uomo. Questo è una prima, diciamo, un po' un primo argomento, no? Ecco, la mediazione, la relazione tra noi è reale, è autentica, e quindi le sue conseguenze sono reali. Adamo era il padre un po' dell'umanità, e l'umanità sente queste conseguenze. Seconda considerazione è questa. Cioè, in un mondo che fin dal suo inizio risulta fatto di relazioni distorte, in particolare la relazione fondante con Dio tra Adamo ed Eva e Dio viene spezzato, viene fortemente distorta, e quindi si inquinano le relazioni interumane. E a me sembra che evidentemente anche agli occhi di Dio risulta conveniente che la famiglia umana sia privata di quei doni preternaturali che prima manifestavano proprio quella piena relazione, la piena armonia nel rapporto uomo-Dio. I doni preternaturali potremmo vederlo così. Io penso che un modo è questo, che la nostra situazione attuale è segno ed è effetto di quella separazione da Dio, che è la cosa veramente grave. Cioè l'uomo lontano da Dio non si regge da solo, non è autosufficiente come vorrebbe. La morte mette un po' in scacco la nostra pretesa di autosufficienza. Se non ci fosse la morte, mamma mia, sarebbe veramente difficile quasi immaginare un mondo di gente superba, orgogliosa, e che oltretutto, ha una vita indefinita davanti. Sarebbe veramente un inferno, proprio, potrebbe essere un vero inferno. Inoltre, ecco, la sofferenza, la morte sono, oltre che un segno della lontananza da Dio, degli effetti della lontananza da Dio, un richiamo a chiederci quale sia il vero senso della vita, proprio spinti anche dalla consapevolezza del fatto che non siamo autosufficienti. Quindi, ecco, in un mondo segnato dal peccato, la morte forse costringe l'uomo, è vero che può essere letta anche come una, appunto, un qualcosa di assurdo, però invece può essere anche un segno che spinge l'uomo a riflettere sul vero senso della propria vita. Terza considerazione, non è tanto un motivo di convenienza, è più una considerazione così che mi veniva che pur nello stato attuale nostro, quindi di natura ferita, quando noi guardiamo all'opera di Cristo, crocifisso e risorto mostrandoci quindi il destino che ci aspetta, quello che Dio veramente prepara per noi, ecco, alla luce di Cristo noi possiamo vivere la vita pur nelle condizioni di natura ferita, sofferente, mortale, sentendoci non meno amati di quanto poteva sentirsi amato Adamo, né meno amati, semmai possiamo addirittura, forse non siamo più amati, ma possiamo sapere di più di Adamo quanto Dio ci ama, perché vediamo quello che ha fatto in Cristo. Quindi possiamo essere non né meno amati, né meno abilitati, diciamo, rispetto ad Adamo ed Eva, né meno abilitati a vivere da figli di Dio, perché grazie a Cristo noi possiamo oggi vivere ogni circostanza, comprese quelle di sofferenza fisica, di sofferenza morale, che riceviamo a volte anche del male nelle relazioni tra di noi, e possiamo viverle sapendoci figli amati da Dio. E a me pare che, vedendo le cose così, cioè vedendo le cose come Dio ha accettato che l'umanità vivesse nella situazione, no, che in cui noi ci troviamo, e in questo ci dà comunque tutta la grazia per poter vivere da figli ogni situazione. Allora, spesso e volentieri il male che noi in cui ci imbattiamo, il male fisico, il male morale, la morte stessa, non sono da vedere come qualcosa che Dio ci manda, che Dio esplicitamente ci manda, che è il modo di pensare forse più comune, che ma perché Dio mi manda questa cosa? Tante cose che ci succedono non sono negative, non sono mandate da Dio, sono semplicemente effetto dello stato di cose in cui si trova l'umanità, per cui c'è la persona superba, la persona che pensa ai propri interessi, che quindi influisce negativamente su altri, quegli altri soffrono, oppure subiamo le conseguenze del fatto che se mangio male sto male, se inciampo mi rompo un piede. E non è che il Signore in tutto, dobbiamo dire, no, il Signore mi ha mandato questo, il Signore ha permesso, questo senz'altro, ha permesso questo nel momento in cui ha permesso la condizione dell'umanità dopo il peccato originale. A volte senz'altro, non vuoi pretendere mai di entrare nel progetto del Signore, a volte riconosciamo che certe cose può averle predisposte Lui, ma tante altre volte la nostra vita è fatta di circostanze nelle quali penso che possiamo pensare il Signore le permette, ecco, non me le manda, ma senz'altro mi dà la certezza della sua vicinanza, come nella vita di Gesù. Anche nella vita di Gesù, anche forse la cosa più radicale, la croce di Gesù, è qualcosa a cui lo portano gli uomini, con il loro rifiuto, la loro chiusura, la loro opposizione, e lo mettono in croce. Gesù accetta, sentendosi figlio amato anche mentre è sulla croce. Quindi a me sembra che, ecco, per chi crede, per chi ha la fede, la situazione dell'umanità, per quanto sia a volte dolorosa, nostro padre che piangeva quando suo figlio moriva e diceva, e faceva fatica ad accettare questo, però poi lo accettava sapendo che da Dio, nostro padre, non ci viene mai niente di male. E quindi noi con la fede riusciamo a vedere che in fondo non c'è poi tanta differenza come vivevano Adamo ed Eva, come avrebbero potuto vivere Adamo ed Eva, e come viviamo noi. In fondo noi siamo abilitati a sentirci amati da Dio e ad amare Dio in ogni circostanza. Poi, ultima considerazione. come già ricordavo con Don Roberto l'altro giorno, quando le persone dicono è ingiusto, non è giusto che muoia un figlio, che muoia una persona buona, muoia una persona buona, ma che male aveva fatto, non è giusto, perché il Signore permette tutto questo. In un certo senso è così, in un certo senso è ingiusto, perché l'uomo è fatto per amare, e l'amore vero richiede di vorrebbe l'eternità per la persona amata. Noi non, effettivamente sarebbe assurdo se noi pensassimo che le persone spariscono nel niente, veramente amare diventerebbe un assurdo, un assurdo. L'amore pretende di essere, di durare per sempre, pretende che la persona amata duri per sempre. Quindi è vero che è in un certo senso, come dire, ingiusto, non dovrebbe essere così, che le persone muoiano. Però ecco, questa considerazione vale a maggior ragione se pensiamo all'amore di Dio. Dio ama ciascuno di noi in modo ancora più radicale di quanto noi possiamo amarci tra di noi. E quindi, se uno ci pensa bene, dovremmo riconoscere che Dio stesso soffre per la nostra morte ancora di più. E diciamo, e se la tollera, la tollera proprio perché non vuole togliere valore a quella, così, a quella mediazione umana di cui parlavamo prima, e non vuole falsare, diciamo, il corso della storia, che ha preso una certa direzione, e che quindi Dio tollera che nello stato attuale dell'uomo, dell'umanità, ci sia la morte, e possiamo dire ne soffre, cioè visivamente anche la sofferenza di Dio per tutto il male che affligge l'uomo la vediamo nella croce di Gesù, in modo proprio molto chiaro, direi. A questo a volte ricordarlo alle persone è utile, dire guarda, cioè il Signore ama, ci ama infinitamente, allora certo, quello che ci divide è la morte, ma il Signore poi, che pure soffre per questa morte, il Signore poi ci riunisce di nuovo, perché l'azione di Dio è di tollerare temporaneamente la morte, però poi quello che vuole per noi in modo definitivo ce lo fa vedere nella risurrezione di Gesù. Il Padre ci mostra nella risurrezione di Gesù quello che davvero vuole per ciascuno di noi. Vuole la sconfitta della morte, e prima ancora vuole la distruzione del nostro peccato, che distrugge con il suo perdono, e la sconfitta della morte è poi la vera vita, la vita eterna in comunione con Lui. Parlando con Don Giorgio l'altro giorno, Don Giorgio Carimati, diceva, le persone, se uno avesse la fede capirebbe che certo si soffre per il distacco da una persona cara, ma per quella persona in fondo, come diceva il nostro padre, la morte è un cambio di casa, no? E poi un giorno ci riabbracceremo, tutti, Signore. Quindi la morte ci divide, Dio un giorno ci darà un corpo immortale, glorioso, a somiglianza del suo, perché vuole questo per noi. E allora direi, non dimentichiamoci di provare almeno a spiegare a tutti quelli che un po' si ribellano a questa supposta ingiustizia di Dio, spiegare che invece proprio Dio porta più di ogni altro il peso della nostra condizione umana, segnata dalla miseria, dalla morte, e lo porta di più perché, in primo luogo, perché è Padre che ci ama, e in secondo luogo, poi la stessa cosa, la manifestazione di questo suo essere Padre è che nel Figlio amato, in Gesù, che soffre sulla croce, si mostra la sofferenza per tutto il male degli uomini, che affligge gli uomini e il male anche degli uomini. Ben, concluderei un po' questo. con una così una frase finale che, che riprende il pensiero di Marcello Bordoni, quel teologo di cui vi ho accennato qualche cosa ieri. Il sì della creazione, il sì con cui Dio decide di creare l'uomo, comprende anche il sì rinnovato della redenzione, quindi il sì all'uomo che pecca, che questo peccato ha delle conseguenze. Il primo peccato ha tante conseguenze, tutti gli altri peccati ne hanno tante, e Dio di fronte a tutto questo però di nuovo pronuncia un sì, e quindi crea, sapendo già che occorrerà redimere l'uomo, no? E alla luce della croce e della risurrezione di Gesù, noi capiamo che è davvero anteriore e più potente il disegno di Dio di farci figli nel suo figlio rispetto, è anteriore e più potente rispetto alle conseguenze del peccato di Adamo. Se pensiamo che Dio già nel creare ha in mente il figlio, l'agnello immolato, capiamo che davvero, come dice San Paolo, laddove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia. Cioè Dio ha fatto il mondo sapendo che l'uomo avrebbe peccato e sapendo già che questo avrebbe solo comportato un riversarsi, diciamo, ancora più grande della grazia, no? nel figlio amato. E allora la caduta di Adamo, che ha prodotto delle conseguenze, come dicevamo prima, reali per tutta la storia della famiglia umana, questa caduta di Adamo non vanifica l'intenzione di Dio, no? Originaria. E Dio ha risposto, non annullando le conseguenze del peccato di Adamo, ha risposto nella storia, in questa storia segnata dal male, dal peccato, con l'invio del figlio per recuperare l'uomo. Per cui Dio al tempo stesso dà valore a tutto quello che noi facciamo, dà valore a quello che ha fatto Adamo, dà valore a quello che facciamo noi nel bene e nel male, però ecco, mette come parola sua definitiva l'amore che ci dà nel figlio, la grazia che ci dà nel figlio, e che è disponibile a ogni uomo, a volte anche attraverso vie misteriose. Termino con Giovanni Paolo II, che dice in Memoria e Identità, pagina 199, dice: la sofferenza di Dio crocifisso è la sofferenza che brucia e consuma il male con la fiamma dell'amore, e trae anche dal peccato una multiforme fioritura di bene. Quindi c'è il peccato originale, però rispetto